Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a tutti a Salva Danaio. Il 2012, buongiorno da Deborah Rosciani chiaramente, si presenta come un anno ricco di offerte per i risparmiatori che vogliono investire su bond, su obbligazioni e che abbiano al tempo stesso un congruo rendimento e un rischio limitato. È vero, sono due caratteristiche che sembra quantomeno contraddittorio poter trovare nello stesso prodotto, ma particolari condizioni di mercato possono aiutare a trovare compromessi, tra virgolette, condizioni che sempre a seconda delle esigenze di ciascun risparmiatore ed investitore possono rivelarsi vantaggiose. Noi questa mattina ne parliamo a Salva Danaio, concentrandoci in particolare sulle obbligazioni societarie e facendo il punto sull'inizio di quest'anno, che a giudicare dalle cifre sembra dare ragione a chi aveva previsto per il 2012 un momento particolarmente positivo per questo mercato. Da un lato infatti c'è lo spread che scende, e lo spread, il differenziale di rendimento tra i titoli italiani e i titoli tedeschi sulla scadenza decennale, ormai il monitor più controllato in assoluto sullo stato della crisi, sembra essersi attenuato appunto, e si è attenuata di conseguenza anche la tensione sui titoli di Stato. Dall'altro abbiamo di fronte un anno che vedrà molte obbligazioni in scadenza e quindi una maggiore necessità di reperire liquidità per molte imprese, rendendo quindi prodotti particolarmente appetibili, dato che per finanziarsi le imprese fanno ancora fatica a farlo attraverso il canale bancario, devono trovare altre soluzioni di mercato. Sono molti i casi positivi di aziende italiane in questi primi mesi. Un esempio su tutte è quello che è successo ad Enel. Come sapete si è chiusa in anticipo il 13 febbraio scorso questa operazione appunto di maxi collocamento di obbligazioni appunto rivolte al pubblico retail, e allora noi oggi volevamo appunto, proprio prendendo a spunto questo dato di cronaca, parlare sia di come è funzionata questa obbligazione, che tipo di obbligazione è stata messa sul mercato, a che cosa è riconducibile questo grande successo, questo grande consenso fra i piccoli risparmiatori, ma soprattutto ci chiederemo se ci sono ancora sul mercato queste opportunità. Cosa può far capire ad un risparmiatore se investire in questo ambito, se si tratti di una scelta azzeccata o meno? C'è sempre il rischio che un investitore poco esperto infatti non presti particolare attenzione ai rischi che corre o che venga consigliato male. Per questo noi oggi a Salva Danaio facciamo il punto sull'andamento di questo mercato, dando anche qualche indicazione generale per guidare i risparmiatori all'ascolto nelle loro scelte. Allora, il numero di telefono che potete utilizzare per intervenire in diretta è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Potete scriverci al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. potete anche farlo sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Siccome abbiamo due esperti di mercato questa mattina, che intanto saluto, Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di JC e Associati, buongiorno. Buongiorno. E Matteo Trotta, vice direttore dell'ufficio studi della società di consulenza indipendente Consultic. Dottor Trotta, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Vorrei anche sentire la loro considerazione rispetto alla reazione del mercato di questa mattina dopo l'accordo greco siglato appunto nella notte, perché come avete sentito è il tema che ha animato gran parte dei nostri giornali radio della mattinata. L'Eurogruppo ha dato il via libera ai 130 miliardi di euro di aiuti alla Grecia, ha fissato un nuovo target per il debito più alto del precedente, ha aumentato le perdite che i creditori privati subiranno dopo lo swap appunto dei titoli. La perdita di valore netto sui bond ellenici da scambiare con i nuovi bond a 30 anni dovrebbe salire a circa il 75%. Questa è la concessione concordata tra Eurogruppo e i vertici dell'Institute of International Finance, il gruppo internazionale appunto di creditori. Il taglio del valore nominale dei titoli sale dunque dal 50%, del quale abbiamo sempre parlato, al 53,5%. Complessivamente il contributo dei privati dovrebbe arrivare, secondo fonti europee, ai 2,8 miliardi di euro in più. Sostanzialmente questo accordo permette la cancellazione di 107 miliardi di debito greco, è un salvataggio sicuramente senza precedenti, che di fatto permette di evitare ad Atene il fallimento con un effetto domino devastante, anche se chiaramente questa ristrutturazione è di fatto un fallimento appunto per questo paese, ma in ogni caso è piuttosto significativa la dichiarazione rilasciata poco fa dal presidente della Commissione europea José Barroso, che ha detto: l'accordo trovato sulla Grecia rappresenta un passo avanti essenziale e sostanzialmente le misure varate la notte scorsa sono servite a chiudere la porta ad uno scenario di default. Volevo subito monitorare la reazione del mercato. La borsa stamattina aveva aperto molto prudente, i listini consolidavano i rialzi degli ultimi giorni, poi si è preferito scendere, si è preferito virare verso il basso, forse qualche investitore incassa, passa l'incasso dei rialzi appunto degli ultimi giorni, e c'è un movimento abbastanza univoco dei listini del vecchio continente, meno 0,7% in media di perdita tra Milano, Francoforte e Parigi, un po' meno Londra che c'è dello 0,34%. È stato più vistoso è stata più vistosa la reazione sul mercato obbligazionario, perché sempre il nostro termometro segnava stamattina 337 punti base, lo spread è arrivato anche sotto i 340, quindi questa tendenza virtuosa anche del differenziale di rendimento fra i titoli italiani e i titoli tedeschi sulla scadenza decennale sta continuando. Chiedo rapidamente un commento sulla reazione del mercato di questa mattina rispetto all'accordo greco, poi andiamo all'argomento promesso, l'investimento nelle obbligazioni societarie. Jacopo Ceccatelli, un copione già scritto, quello che leggiamo questa mattina dai mercati, la reazione negativa della borsa ci sta, così come quella appunto sul fronte obbligazionario, che peraltro reagisce anche all'asta di titoli di Stato spagnoli di questa mattina, che ha avuto una domanda molto buona e rendimenti, anche in questo caso, in discesa abbastanza significativa. Direi che sì, questo accordo era ampiamente probabilmente scontato nei prezzi e anche un po' nella psicologia del mercato. Credo anche che sia chiaro a tutti che è un passo avanti, ma non è un passo definitivo. In questo senso direi che la reazione è abbastanza contenuta, e cioè questo mi sembra tutto sommato così più che normale rispetto a quello che si è deciso. Ecco, ci saranno poi delle considerazioni da fare relativamente ovviamente alla differenza di trattamento tra investitori privati e investitori, diciamo così, pubblici. Esatto. Ci sono delle novità su questo fronte, perché anche i nostri ascoltatori ce le chiedono frequentemente, soprattutto in molti ci stanno chiedendo se corrisponde a verità questa indiscrezione che ormai circola da tempo, secondo la quale soprattutto i micro investitori, i piccoli, potranno avere un trattamento privilegiato, quindi diverso rispetto al resto della platea degli investitori internazionali. Ma non mi risulta adesso, chiaramente ci dovrebbe essere un passo legale importante, che è l'introduzione delle collective action clauses, che di fatto costringerebbero tutti gli investitori, chiamiamoli così, non privilegiati, ad accettare questa ristrutturazione. Bisognerà vedere appunto in che percentuale. Bisognerà vedere i dettagli, però sembrerebbe questa la strada scelta, e quindi di fatto queste clausole che verrebbero introdotte retroattivamente dal governo greco imporrebbero a tutti gli investitori privati di accettare le decisioni dell'assemblea degli obbligazionisti presa maggioranza qualificata. Aspetteremo ancora qualche giorno prima di ritornare sull'argomento e dare qualche dettaglio in più ai nostri ascoltatori che hanno delle obbligazioni in scadenza anche in tempi abbastanza rapidi, ma sicuramente almeno con questo primo pacchetto di aiuti le scadenze di marzo saranno tranquillamente onorate. Sì, Ceccatelli, non è detto. Per no. Quale motivo? Ma a dire la verità, uno dei motivi della corsa, tra virgolette, sembrerebbe proprio quella di includere le scadenze di marzo nell'accordo, però questo ovviamente lo sapremo, credo, in un secondo momento. Però non darei in questo momento, speranze eccessive. Allora, va bene, quindi a maggior ragione dovremmo ritornarci su questo argomento in tempi abbastanza rapidi. Detto questo, siccome noi oggi più che di investire in bond greci parliamo di investimento nelle obbligazioni societarie, ci ascoltiamo la nostra scheda e poi cominciamo appunto ad esplorare anche questo campo di investimento che è ritornato ad essere molto frequentato soprattutto dai piccoli investitori che aspettavano delle occasioni di mercato di taglio ragionevole, quindi la portata di piccoli portafogli, come è accaduto di recente con l'obbligazione Enel. Sentiamo. Stando ai dati di questi primi mesi, il 2012 sembra delinearsi come un anno ricco sul fronte delle obbligazioni societarie, che promette di attirare molta attenzione e, si spera, anche molta fiducia da parte dei risparmiatori. Il volume di nuove emissioni, infatti, è atteso in crescita per un duplice motivo. Da un lato, l'allentarsi delle tensioni sui titoli di Stato. Dopo un 2011 a dir poco terribile, i buoni risultati delle ultime aste e lo spread che scende potrebbero incoraggiare anche gli investimenti in questi prodotti, il cui andamento è strettamente legato alla fiducia riposta nel debito sovrano. Dall'altro lato, ci sono le stime sulle obbligazioni in scadenza. Solo le imprese italiane nel 2012 dovranno infatti rimborsare corporate bond per 9,4 miliardi. E quando più soggetti sono alla ricerca, negli stessi mesi, di denaro fresco, i rendimenti salgono e diventano più stuzzicanti per gli investitori, facendo aumentare le richieste. La tendenza di questi ultimi mesi sembra già confermare le previsioni. Le società italiane sono ai primi posti nelle classifiche delle migliori performance per i titoli non finanziari, con i prezzi in salita e i rendimenti in discesa. Hanno riscosso un gran successo i titoli Finmeccanica, Telecom Italia, Enel, ma anche Hera e Lottomatica. Nella speranza di liberarsi con sempre maggiore decisione del rischio sovrano, quindi, il 2012 potrebbe rivelarsi, a detta di molti, l'anno giusto per investire in obbligazioni societarie. Ma l'entusiasmo per le opportunità non può far dimenticare i rischi. E per il risparmiatore resta sempre fondamentale informarsi con cura e valutare con molta attenzione le caratteristiche di un prodotto prima di sottoscriverlo. Tra l'altro, così raccontando un po' anche della reazione del mercato rispetto all'accordo greco, abbiamo rubato qualche minuto al tema di oggi, devo già fare la prima pausa, però permetto almeno una prima considerazione a Matteo Trotta di Consultic per chiedergli se così era una reazione anche abbastanza attesa questa grande ricerca dell'obbligazione Enel, questo grande consenso che questo prodotto e questo collocamento ha ricevuto appunto tra gli investitori retail, oppure non lo so, è stata una circostanza legata magari al particolare frangente che il mercato sta vivendo. Quale spiegazione vi siete dati voi analisti? Ma secondo me ci sono due spiegazioni. Uno è sicuramente la contrazione dello spread pagato dall'Italia rispetto alla Germania, e secondo, molto più diciamo così pratico, è che erano diversi mesi che un emittente non emetteva un bond sul mercato, un bond retail. Ultimamente le emissioni sono state molto, molto scarse, e quando c'era qualche emissione sul mercato era sempre riservata agli istituzionali, per cui sia la contrazione degli spread sia un'emissione retail che non si vedeva da molto tempo, a nostro giudizio sono i due ingredienti che hanno consentito ad Enel di emettere questi due bond con successo. E soprattutto di chiudere questo collocamento con largo anticipo sul previsto, perché si sarebbe dovuto chiudere il collocamento il 24 febbraio, invece è già stato chiuso il 13 appunto, e praticamente il gruppo ha offerto bond per 3 miliardi di euro, la domanda è stata superiore ai 5 miliardi, peraltro si procederà al riparto, un riparto che sarà del 56%, poi vi spiegheremo meglio appunto come funzionerà. Salvadanaio ha preso a spunto una recente operazione finanziaria piuttosto importante che ha riguardato i piccoli investitori italiani, si è chiusa infatti in anticipo il 13 febbraio scorso l'offerta pubblica delle obbligazioni Enel a tasso fisso e a tasso variabile riservate appunto alla platea dei risparmiatori indistinti, retail, piccoli. Enel ha dovuto aumentare, vista la grande richiesta, il valore nominale dell'offerta fino a 3 miliardi di euro, perché la domanda è stata appunto superiore ai 5 miliardi. Abbiamo due ospiti questa mattina con i quali commentare questa operazione. Adesso vi spiegheremo anche le modalità di funzionamento e di retribuzione appunto delle due obbligazioni distinte. Oltre a questo, chiaramente parliamo in termini più generali del mercato delle obbligazioni societarie, perché esattamente come è successo per il mercato delle obbligazioni governative, anche questo settore è stato piuttosto movimentato di recente, con prezzi che sono stati in caduta verticale su molti settori e altre occasioni di investimento che si sono affacciate sul mercato. Ma naturalmente dobbiamo maneggiare tutto con grande cura. Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di GSE Associati, stamane con noi, e Matteo Trotta, vice direttore dell'ufficio studi della società di consulenza indipendente Consultic. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Sentiamo subito Pierluigi da Milano, che appunto mi pare di capire focalizza la sua attenzione sull'operazione Enel. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io sono stato un sottoscrittore delle obbligazioni Enel che scadono nel 2016, sia quelle a tasso fisso che a tasso variabile. Mi era stato proposto di chiuderle e di aprire quelle nuove, con una perdita del 2% su quelle fisse. Su quello variabile, fuori discussione, perché avrei perso il 9%. Volevo sapere un'opinione da parte dei suoi ospiti, se ho fatto bene oppure se ho sbagliato. a non chiudere e non aprire quelle nuove. E quindi chiaramente insomma fare un ragionamento anche sulla convenienza finanziaria in relazione anche alle sue esigenze, Pierluigi. Allora, Jacopo Ceccatelli, ci dica un po' che tipo di consulenza farebbe al nostro ascoltatore. Ma diciamo che le considerazioni vanno fatte non solo ovviamente su quanto si sta perdendo, su quanto si sta guadagnando sul vecchio investimento, ma su una considerazione comparativa tra il vecchio titolo e il nuovo. Noi abbiamo effettuato durante la fase di collocamento questa comparazione e i nuovi titoli ci venivano diciamo leggermente più convenienti, quindi consentivano ai prezzi di mercato diciamo correnti, soprattutto il tasso fisso, una maggiore azione di rendimento, quindi sicuramente ecco ai nostri clienti abbiamo suggerito, per chi aveva le vecchie Enel, di sostituirle anche se generavano una piccola perdita, perché in prospettiva comunque consentono, ripeto, soprattutto ovviamente quelle a tasso fisso che hanno un rendimento certo, consentono comunque una redditività maggiore. Quindi diciamo che le obbligazioni Enel sicuramente quelle di nuova emissione sono state emesse a rendimenti leggermente superiori, stiamo parlando di qualche decina di centesimi di punto percentuale, quindi non differenze macroscopiche, però comunque rendimenti maggiori rispetto a quelle che erano sul mercato ai prezzi correnti. Quindi diciamo la consulenza che avete voi offerto ai vostri clienti è stata sostanzialmente in linea rispetto a quella che appunto Pierluigi ha ricevuto. Da un punto di vista prettamente di una convenienza finanziaria, effettivamente c'è stata appunto la convenienza a fare una sostituzione dell'obbligazione. Tra l'altro quella che scade a Pierluigi nel 2016, Trotta, lo chiedo a lei se lo ricorda a memoria, è l'obbligazione frutto dell'altro grande maxi collocamento appunto che Enel ha fatto qualche anno fa, forse quella del 2007? Allora, quelle del 2016 fanno riferimento al 2010, al 24 febbraio 2010. Sono state emesse due obbligazioni, una a tasso variabile e l'altra a tasso fisso del 3,5%. Per quanto riguarda la proposta dello switch sono assolutamente d'accordo, perché il rendimento dell'obbligazione 2016 ha attualmente un rendimento del 3,85/3,90%, mentre la nuova obbligazione presenta un rendimento cedolare del 4,875, quindi un punto e 37 abbondante in più. Se consideriamo che è stata venduta, si poteva vendere quella 2016 a 98,60, 98,70 perdendo un punto e mezzo due, oggi questo punto e mezzo due di minus viene compensato dalla plusvalenza attualmente in essere, perché il bond è andato in emissione ieri ed è già scambiato a 101,15. Ecco, bisogna tenere in considerazione che la durata è un po' più lunga di 2 anni. Ecco, questo si riferiva al ragionamento appunto all'obbligazione a tasso fisso di questo pacchetto collocato da Enel. C'è anche una tranche che è molto più contenuta rispetto a quella appunto sul tasso fisso a tasso variabile. Come funziona invece il calcolo del rendimento su questa tranche, Trotta? Come si deve calcolare? Allora, l'obbligazione a tasso variabile è stata determinata con uno spread di 310 punti, così come la tasso fisso, sul tasso Euribor 6 mesi. Allora, la redditività non è che si può predeterminare per definizione, perché è legato a un tasso monetario che varia nel tempo. Dati i livelli recenti dell'Euribor, appunto ammettendo di aver acquistato un pacchetto di 2.000 euro, che era il lotto minimo che era possibile sottoscrivere appunto in questo collocamento, quindi teoricamente qual è il tasso di rendimento che si spunterebbe in questo momento? Su questa emissione attualmente stiamo parlando del 4,40%. Contro un 4,875 della tasso fisso. Benissimo, allora questo è un po' sono i parametri praticamente di questa obbligazione. Sono già perché avesse tra l'altro mancato l'occasione del collocamento, Trotta adesso può fare la sottoscrizione sul mercato secondario, perché il titolo è quotato, giusto? Sì, per entrambi i titoli, anche se a condizioni leggermente peggiori, perché i prezzi sono già saliti oltre a 100. Allora, questo è il quadro. quadro. Ceccatelli, facciamo un ragionamento di tipo generale. Che correlazione c'è tra, anche se appunto Trotta un po' già su questo argomento ci è andato all'inizio della trasmissione, tra il rendimento delle obbligazioni societarie e il rendimento dei titoli di Stato italiani? Cioè, che tipo di movimento hanno avuto le obbligazioni societarie negli ultimi mesi in relazione anche all'andamento del merito di credito appunto del nostro paese, quindi lo spread che è letteralmente volato lo scorso autunno? Come ne hanno risentito le obbligazioni societarie delle grandi aziende italiane? Ma generalmente, a parte pochissime eccezioni, forse solo una, che è quella di Eni, che parzialmente ha sopportato meglio, direi che quasi tutte le obbligazioni societarie hanno subito il contraccolpo dell'allargamento dello spread con una correlazione estremamente elevata, sia in negativo appunto nelle fasi finali del 2011, sia in positivo adesso in queste settimane, dove stiamo per fortuna vedendo una costante riduzione di questo famoso spread. Quindi sicuramente è un elemento fondamentale, è un elemento, diciamo così, digitale, nel senso che se la situazione si rimette al bello stabilmente, anche ai rendimenti attuali, che sono molto più bassi di quelli di qualche settimana fa, sicuramente investire in titoli di società italiane, di grandi società italiane, titoli obbligazionari, è un investimento dalle prospettive più che buone. Chiaramente il rischio è che la situazione torni a peggiorare, in quel caso sicuramente vedremo ancora un peggioramento. Non c'è dubbio che tutte le società italiane subiscono moltissimo in positivo, oppure beneficiano subiscono in negativo o beneficiano in positivo dell'andamento dello spread. Certo, ecco, di conseguenza con lo spread che un attimino si è rasserenato nelle ultime settimane abbiamo visto anche i prezzi delle obbligazioni societarie Trotta ritornare su livelli un po' più tranquilli rispetto a quelli che si erano visti nei mesi scorsi, perché anche questa asset class era stata oggetto appunto di vendite molto massicce. Quali titoli sono stati particolarmente colpiti dal crollo dei prezzi dei titoli di Stato? Quindi in quali settori c'è stata una relazione più diretta e più marcata? Quelli, non so, per esempio le aziende il cui business è direttamente correlato al rischio sovrano, quindi non lo so, Finmeccanica, Enel, oppure c'è stata una, come dire, una reazione indistinta? Allora, inizialmente c'è stata una reazione indistinta, tranne, come si diceva prima, per i bond emessi da Eni. Successivamente, col peggiorare della situazione, i titoli tra virgolette meno solidi sono letteralmente precipitati, per cui quelli che sono scesi di più sono anche quelli che sono rimbalzati di più. Li citavamo prima, come ad esempio Finmeccanica, che ha sofferto anche di altre vicende. Poi questo nell'ambito societario, poi non ci dobbiamo dimenticare il settore bancario, che ha subito delle fortissime flessioni, in questo caso non in maniera indistinta, ma a seconda del livello di garanzia di ciascuna emissione obbligazionaria. In particolare sono scese meno e rimbalzate meno le obbligazioni senior, sono scese tantissimo e rimbalzate tantissimo le obbligazioni subordinate. Che cosa sono le obbligazioni senior, Trotta, tanto per tradurlo ai nostri ascoltatori? Che differenza c'è con quelle subordinate che pure ha citato? Le obbligazioni senior sono obbligazioni tra virgolette normali, nel senso che per non pagare cedole o rimborso del capitale è necessario che l'emittente fallisca. Le subordinate invece, alcune tipologie di obbligazioni subordinate, possono invece non pagare una cedola o vedersi decurtato il capitale senza che l'emittente fallisca. Quindi ci sono altre condizioni affinché la società si riserva appunto di non rispettare gli impegni presi con gli investitori? Esatto. E quali possono essere per esempio queste condizioni? Ad esempio può capitare il non pagamento di un dividendo. Se la società non fa utili e non paga il dividendo, può decidere di non pagare l'obbligazione subordinata. Quindi insomma è un po' più a rischio rispetto a quella senior, all'obbligazione tradizionale. Allora, oggi parliamo di obbligazioni societarie, un asset class che viene spesso scelta appunto anche dai piccoli investitori, anche se per la verità i tagli di investimento non è che siano sempre praticabili con grande leggerezza dai piccoli investitori, perché sono sono tagli di investimento piuttosto alti, fanno eccezione queste operazioni appunto sporadiche che qualche volta vengono presentate sul mercato, come la recente operazione di Enel, e questo è un motivo per il quale appunto c'è stata una grande corsa alla richiesta allo sportello appunto di un prodotto di questo tipo. Matteo Trotta, tra l'altro, questo è proprio un ragionamento che ci eravamo ripromessi di fare quando ci siamo sentiti prima della trasmissione, effettivamente il taglio dell'obbligazione societaria non è sempre a portata di piccolo portafoglio. No, assolutamente, soprattutto negli ultimi mesi. A tal proposito possiamo ricordare come in questi 10 giorni, oltre all'obbligazione di Enel, le due obbligazioni di Enel, sul mercato sono andate anche Atlantia e la stessa Terna, con scadenze tra il 2017 e il 2019, con dei lotti pari a 100.000 euro. Ecco, quindi dico proibitivi, però abbastanza elevati, e insostenibili per i piccoli risparmiatori. E diciamo che per queste operazioni difficilmente le aziende fanno anche grandi campagne pubblicitarie per comunicarle appunto all'esterno. Detto questo, 800 24 00 24, ancora il numero verde a vostra disposizione per le vostre domande. Sentiamo Angelo da Arezzo, che avevamo già salutato prima. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Si tratta di questo, la domanda che volevo fare è semplice, chiedevo: la sicurezza dei titoli di Stato italiani, siccome è maggiore rispetto alla sicurezza che dà l'agenzia di rating che ha Enel, perché non comprare titoli di Stato italiani che costano di meno e rendono ancora di più? Allora, intanto bisognerebbe magari fare un paragone tra un'obbligazione Enel recente e un titolo di Stato appunto di pari durata e magari di dinamica simile. Jacopo Ceccatelli, perché diciamo a parità di condizioni o a condizioni simili un investitore dovrebbe acquistare un'obbligazione societaria piuttosto che un titolo di Stato? Le fila il ragionamento di Angelo? Ma allora è chiaro che entriamo sicuramente in un campo dove non ci sono certezze, soprattutto in questo momento. È chiaro che fino a qualche, direi, anno fa i titoli di Stato erano considerati al di sopra di ogni sospetto. Il prodotto free risk, ecco, privo di rischio per eccellenza. Questa condizione in un certo senso è stata messa in discussione negli ultimi mesi soprattutto, e con l'esempio della Grecia ovviamente è abbastanza evidente. E quindi le obbligazioni societarie, che offrono comunque in molti casi dei bilanci leggibili e anche hanno degli asset reali a garanzia in un certo senso del loro debito, sono stati visti da molti, soprattutto ovviamente delle società molto grandi, molto, molto solide, sono stati visti come un'alternativa migliore ai titoli di Stato, per i quali ovviamente in questo momento si possono fare lunghi discorsi, ma c'è stato sicuramente, per fortuna sta rientrando, una messa in discussione del loro status, anche perché in Europa i singoli stati non sono più autonomamente in grado di stampare carta moneta, e questo è uno dei fattori che normalmente fa ritenere un titolo di Stato al di là di ogni rischio, cioè al di sopra di ogni rischio. Andiamo a Fabrizio D'Alecco, buongiorno. Buongiorno, premetto che sono un consulente finanziario e io avevo osservato questa particolarità del mercato obbligazionario. Da un po' di mesi è aumentato di parecchio lo spread tra titoli governativi e corporate. Secondo me... In alcuni settori in particolar modo, oppure c'è una tendenza univoca, Fabrizio? In generale, compreso, quando parlo di governativi lasciamo perdere l'Italia, che ha subito, è stata degradata più volte, per cui sì, l'Italia è un caso a parte. Io parlo in generale, compresi governativi paesi emergenti, e la mia impressione è che ha influenzato molto questo dato la fiscalità diversa che c'è dal primo di gennaio, nel senso che dal primo di gennaio tutti i titoli governativi, non solo titoli di Stato italiani, ma anche esteri, anche dei paesi emergenti, subiscono le ritenute del 12,50. I corporate, purtroppo, dal primo di gennaio hanno il 20. Subiscono per l'armonizzazione del 20% della tassazione sulle rendite finanziarie. Il rendimento netto influenza probabilmente questo dato. Fabrizio, sentire una risposta. Che cosa ne pensano i nostri interlocutori? Matteo Trotta, inizio da lei. Beh, sicuramente questo può essere un aspetto che viene tenuto conto dai risparmiatori, però, e dall'investitore in genere, però secondo me non è un elemento tra quelli che vengono presi in considerazione, tra quelli determinanti nella scelta di un titolo piuttosto che un altro, perché bisogna, diciamo così, poi scendere un attimino negli aspetti tecnici delle obbligazioni. Come dicevamo prima, molte emissioni corporate in questo momento, che hanno lotti minimi pari a 50.000, sono, diciamo così, meno accessibili rispetto ai titoli di Stato, che hanno tutti lotti minimi pari a 1.000. Secondo, non tutte le obbligazioni societarie sono quotate su mercati regolamentati, molti sono over the counter, sì. Molti altri sono sull'extra MOT, che non è il MOT. Anche questi aspetti contribuiscono ad allargare gli spread? Dobbiamo tener conto che gli spread bid-ask, cioè il prezzo al quale si può vendere, il prezzo al quale si può comprare, sono determinati dagli operatori di mercato su base, tra virgolette, volontaria, mentre sui mercati regolamentati il mercato fa, è certo. E dunque, allora, speriamo di aver accontentato il nostro ascoltatore. Noi tra l'altro stiamo andando verso la chiusura. Volevo chiedere una visione complessiva sul 2012 che ci aspetta per quello che riguarda questo mercato. Jacopo Ceccatelli, visto che le aziende... ecco, Ceccatelli è caduto, va bene, allora faccio una riflessione finale con Matteo Trotta. Marco, possiamo anche non richiamarlo, tanto manca un minuto alla chiusura. Le chiedo appunto che tipo di visione ha su questo mercato per l'anno che ci aspetta, un mercato che ancora avrà qualche difficoltà, soprattutto per molte aziende magari a fare richiesta alle banche per l'accesso al credito, quindi le società magari si finanziano in maniera alternativa. Avremo delle occasioni interessanti, appetibili secondo lei, oppure dovremmo ancora subire la volatilità determinata anche dalla condizione di crisi dei debiti sovrani dell'Eurozona, perché non è che con l'accordo della notte ci siamo fermati qua? A mio giudizio diciamo che il peggio dal punto di vista obbligazionario sembra essere passato. Cioè, non vuol dire che non affronteremo periodi di volatilità, anche se non come gli ultimi tre mesi del 2011. Per quanto riguarda le nuove emissioni obbligazionarie, secondo me proseguirà il trend che abbiamo visto a febbraio, cioè poche emissioni retail, tante a livello istituzionale, che consentiranno, per chi ovviamente se lo può permettere, anche in un principio di diversificazione, potranno diciamo rappresentare delle buone occasioni, anche perché diciamo così, una compressione dello spread si traduce anche in immediati aumenti dei prezzi, il che vuol dire che un titolo obbligazionario non necessariamente debba essere portato a scadenza. Esatto, come tra l'altro abbiamo fatto l'esempio iniziale della vecchia obbligazione nello scambio con la nuova. Grazie a Matteo Trotta, Jacopo Ceccatelli. Salvadanaio torna domani, buona giornata.